Ti prego, Cruciani, inizia in fretta che non ne possiamo più di sentire Barisoni. Basta! Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, no, ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzare, Uakbar, a zanzare, Uakbar. Amici camionisti, ascoltate la zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di confrontato. Ciao. Cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità. Ragazzi, ma quanto è marcia la Chiesa? Diciamo la verità, caro Parenzo, la Chiesa è di un marcio che nemmeno Papa Francesco. Non generalizzerei troppo. No, però, come dai, no? Ma come no? Ma ragazzi, ma ogni giorno escono fuori notizie di preti che fanno qualsiasi cosa. Cioè, di preti che fanno qualsiasi cosa, che intascano soldi, francescani corrotti, e sesso a gogo. No, noi non ci stupiamo di niente perché siamo persone scafate, abituate a qualsiasi cosa, eccetera. Però, ragazzi, è incredibile. C'è addirittura un prete, leggo da qualche parte, c'è un parroco di 59 anni in Germania, perché poi non si tratta solo dell'Italia, del Vaticano, che si è suicidato per la sua dipendenza dal porno. Sì, poveretto, sì. Una dipendenza dal porno. Pazzesco, pazzesco. La mia vita si è trasformata in un peccato che contraddice il voto di castità. Quanto è marcia la Chiesa? Ragazzi, non so quanti di voi abbiano letto le conversazioni tra la signora Ciauchi e Monsignor Baldà, quei due accusati di aver passato le carte, insomma, siamo chiari, di aver passato le carte, accusati di aver passato le carte ai giornalisti Nuzzi e Fittipaldi, autori dei libri sulla... aggiungerei dei libri bestseller, Sì, vabbè, non fare il lecchino come al solito, non ce ne frega niente. Amico Nuzzi. Ma sì, va bene, ma sicuramente. Aggiungere, perché è un aggettivo giusto. Ma non me ne frega caso. Niente in questo niente, momento di parlare niente, dei bestseller. E la cosa fondamentale è, sono queste conversazioni che sono uscite fuori, sono incredibili. La signora Ciauchi, che è quella, ripeto, la donna accusata di avere passato le carte eccetera eccetera, scrive a Monsignor Baldà: ora che vai a Sansosti, che è il paese in Calabria dove è originaria, mia mamma ti porta da Silvana, è perfetta ed è una mia cugina, così può anche essere salvato il patrimonio genetico. Poi mi dici che ne pensi. 36 anni, morbida. E Monsignor Balleco, risponde: Ciauchi, martedì sera viene a casa tua a trombare, ok? Silvana vuole trombare, che facciamo? Balleco: io no. Tu sei perfetto, Silvana è morbidissima, perché non va bene? E Monsignore l'assa perde, è bruta, che dovrebbe essere, è brutta, diciamo, è spagnolo il Monsignore, dovrebbe essere, poi non sappiamo, sono sempre conversazioni via sms eccetera. Ha detto lo psichiatra che devo farti divertire, lunedì Negroni fino alla morte. In un'altra conversazione la stessa Ciauchi, che si professa poi una, no, integerrima difensore della morale cattolica, consiglia al Monsignore: sei depresso? Scopa che ti passa la tensione. Pippe, pippe, pippe. pippe, molte pippe. Allora ragazzi, io non voglio dire niente. Io non voglio dire niente. Che potresti dare tu teoricamente questo. Ma no, no, pippe va sempre bene la masturbazione. Il punto non è molto semplice. Le domande sono queste. Numero uno, come ha fatto il Papa? Perché il problema è quello. Come ha fatto il Papa ad affidare la riforma delle finanze vaticane, dell'economia vaticana, quello che è, a due signori come questi? Cioè, ma non controllano prima? Non fanno un'indagine? Non esistono i servizi segreti vaticani? Da chi è stata messa lì in quel ruolo la signora Chauchi? Che rapporto c'è tra i due? Cioè, chi comanda chi? Comunque ragazzi, il Vaticano è marcio fino all'osso. Fino all'osso. Allora, ieri credo alla Gabbia in un servizio. Ma non vogliamo dare altre notizie? Aspetta, ma ci fermiamo aspetta. Solo qui? Aspetta. Non vogliamo parlare di Eliana Miglio, ad esempio? No, dai, David. Non vogliamo parlare di Novella 2000. Sei veramente amico penoso. Mio, sei veramente. Quanti amici della Zanzara? Dopo, dai, dopo. Come dopo? Dopo spiegherò tutto. Non c'è da spiegare. Ma come no, c'è da spiegare? Tanto è sulle prime pagine del giornale. Eliana Miglio. Dai, non fare attrice, il cretino, dai. 50 anni. Baccagliata dal signor Cruciani. Fotografati sotto casa della stessa a Roma. Quando sei venuto qui non mi hai detto un cazzo. Sei venuto così, ma allora vieni al cinema. Buon fonchiato, no, da fare. Sei veramente un coglione. Per scoccare una cena, non mi hai detto che venivi qui e ti ritrovo su Novella 2000, giornale testé comprato dalla signora futura first sciura di Milano, Santa De Che. Subito! Eliana Miglio ha messo a dura prova la fama di playboy del giornalista di Radio 24. Come? Semplicemente offrendogli una tisana, amico mio! Una tisana gli ha offerto! Gli ha dato il 2 di picche! Gli ha dato il 2 di picche! Gli ha dato il 2 di picche! Sei veramente un volevo coglione. Fare la breaking su questo, ma invece l'ho tenuta per un'altra notizia. Vabbè. La breaking della seconda parte della trasmissione. Breaking news ci sarà. Sei morto dopo questa intemerata che hai fatto? Sì. Sei contento? Sei contento. La tenevo qui da questa mattina. E l'avevo qui nelle mie mani, il giornale Novella 2000, qui! A passeggio per i vicoli di Roma, non l'ha fatto salire, gli ho offerto. Ma sei veramente tisana. Un coglione, lo sai? Il fotografo di Novella 2000 specifica, è stato facilissimo, è stato su solo 10 minuti e poi l'ha ricacciato giù subito. No, c'è un'altra dice, spiegazione. L'ottimo Mondonico, l'ottimo, l'ottima sei penna. Sei veramente una che testa di cazzo. Lui la direzione di Repubblica, altro che lui, Mondonico, dovrebbe andare a dirigere l'ottimo giornale di Repubblica abbandonato da Ezio Mario. Mondonico, Carlo Mondonico! Vabbè ragazzi, passiamo alle cose importanti. Questa è importante, per carità, tutto è importante in questa trasmissione. Gli ho offerto una tisana, gli ho offerto ma quale tisana? Ma di che sta a parlare? Ma quale tisana? Non mi è bevuto tisana in vita mia ma alle due di notte io. Cioè, ci sarà da spiegare dopo, la gente non è interessata ad altro. L'Islam, no, torniamo un attimo sull'Islam, un secondo perché comunque ha qualche attinenza. A Berlino, hai visto che è successo a Berlino? No, ma aspetta, fermo là, in una trasmissione ieri sera. In una trasmissione ieri sera, credo, la Gabbia. La polizia è entrata in moschea a Berlino. No, ma non me ne frega niente. Senti questa roba. No, senti questa roba qui. In una trasmissione ieri sera un signore islamico a Roma è stato intervistato per strada. Adesso c'è la tecnica di beccare l'islamico che la spara sì, grossa, vabbè, diciamo, no? Vabbè. Nuova tecnica, va benissimo, ottimo. Sentite cosa dice questo islamico a Roma sul rapporto tra lui e la figlia. Se tua figlia ti dice io ho fatto sesso, ma non è sposata, non ne posso fare. Che fai? A meno. La meno. Può andare vestita corta? No. Che succede se va corta? È una mia religione, non c'è, non è posto. Che fai? Io meno. Se il tribunale decide che deve morire, è giusto. Certo. Quello è certo, leggi. Il marito che comanda? Certo. Se tua moglie va con un altro, tu puoi mandarla via, ma non c'è nessun tribunale. Penso io, mandare paese, vediamo che cosa succede. Ah, la porti al paese e al tribunale, certo. In modo che può essere nel caso punita, certo. E uccisa. Certo. E qua invece non può. Lascia perdere qua, non è voler casino qua. Sì, diciamo che è un po' imboccato il signore, un po' imboccato dalla bravissima, come si chiama, Raucci, là, come si Raucci, chiama? Monica Raucci. Sì, però dice le cose, la meno, la porto nel mio paese, eccetera, eccetera. L'Islam cosiddetto moderato. Magnifico scontro tra il signor Gasparri, e il nostro amico Mohammed Ali Sheikh Nur di Padova. Sheikh Nur, ma è una bravissima persona. Senti cosa è successo, no? Spettacolare, perché Sheikh Nur attacca i politici a un certo punto. Fa benissimo. Dice: voi ladri, avete rubato di soldi. Senti Gasparri. Sto diventando politico anch'io, perché imparo, mi piacerebbe rubare e avere 15.000 euro al mese anch'io. Ma fiammati di colore prima. Che MSI dopo. Ma stai zitto, cialtrone ridicolo. Pagliaccio con lo zucchetto. Ma stai zitto e torna a tenere il tuo paese. Da dove vieni? Non ho paura di nessuno. Allora, sentiamo cosa voleva dire Libranti. Per non dimenticare la testimonianza drammatica ieri sera qui alla Zanzara di Corazzo, il commerciante di gioielli di un paesino vicino Milano, proprio qui a pochi chilometri da Milano, il quale ha sparato a un ladro, lo ha ammazzato, gli altri due in fuga, è terrorizzato dal fatto che questi due sono ancora in giro, non sono ancora stati presi, il pubblico ministero dice legittima difesa. No, in questo caso non ha il clamore del caso Sicignano, semplicemente perché sembra già definito, no? Cioè non è stato indagato per il momento, sembra legittima difesa, eccetera, eccetera. L'ha detto anche il PM, però ieri sera a noi ha detto una cosa fondamentale. Ha detto è di legittima difesa al 100%, quello è normale che lo dica Corazzo. Ha detto anche: ringrazio Dio di essere armato. Cioè, tu non hai dubbi, è sicuramente legittima difesa. Al 100%, perché io ho fatto quel che dovevo fare per difendere la mia famiglia. Ho risposto al fuoco, ho risposto alle minacce, non volevo stare la pistola, non volevo fare niente. La potevo stare prima, non l'ho fatto, io volevo solo tranquillità che andassero via. Hanno preso quel che dovevano prendere, ma loro non si sono accontentati di quel che avevo. Sì, e certo. Quindi ringrazio Dio di aver avuto, di essere armato. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Ho un suggerimento per un punto della lista Zanzara: il divieto di aggregazione per tutte le religioni, porte sprangate per chiese, moschee e cose simili subito. Se credi in queste cose lo tieni per te, non devi rompere il cazzo al prossimo, capito? Mi avete rotto talmente tanto il cazzo che sono diventato musulmano. Salam aleikum. Ragazzi, però, a proposito di legittima difesa, di sparatorie, di fucili, eccetera, eccetera, è successa una cosa clamorosa, perché clamorosa, una cosa importante, un fatto di cronaca che va rilevato, va raccontato. Non c'è solamente il commerciante di gioielli che ammazza un signore perché gli viene a rubare dentro casa, minaccia la figlia, minaccia la famiglia, mi avrebbero ammazzato, dice. Per esempio, succede nel Bresciano, che un imprenditore di 49 anni, davanti ai ladri che volevano saccheggiare i suoi magazzini, viene a un certo punto avvertito dai vicini e che cosa fa? Prende il fucile e spara in aria. Però non si può, secondo la legge, sparare tra le abitazioni, non si possono esplodere colpi d'arma da fuoco tra le abitazioni. E dunque che cosa fanno i carabinieri che sono arrivati dopo? Cioè lui avverte i carabinieri si presentano 20-30 minuti dopo, come è normale che sia, al contrario di quello che dice qualcuno, per esempio il nostro amico Librandi, chiamate i carabinieri. Giustamente i carabinieri non sono ovunque, no? Cioè, certo. Perché sono anche pochi, in generale sono anche... No, adesso ti avviso, Roma è piena di polizie e carabinieri da tutto, ogni angolo di strada. No, questo si vede, eh. Perché purtroppo per il giubileo hanno rafforzato tutto. Io ho preso la purtroppo anche perché oggi, dovrebbe essere sempre così, invece lo fanno solo per il giubileo. Nella fermata della metropolitana l'esercito male, l'esercito, male, molto male, molto male, bene, molto male, bene. Perché poi finirà bisogna tutto. Dar merito in questo caso a chi? Al Papa, alla Pinotti, al Papa, ma che merito di che? Ma è una cosa che Pinotti di aver sguinzagliato Alfa, ma tu sei veramente, ma sei veramente un leccaculo, merito di che? No, stanno proteggendo ma sono oggettivo, cioè sì. Ma quale merito? È una vergogna che solo per la polizia e dell'esercito, sì, questo lo devo dire che c'è, ma ed è vero. Ma che ne sai, hai visto due fermate della metropolitana, no, e no, sei convinto che è stata rafforzata la sicurezza. E ho chiesto ai miei amici tassisti di Roma, ma quando anche loro mi dicono, abbiamo visto un incremento delle forze della polizia. Con l'autista di Cairo, ma che secondo te lo ma quale è? Comunque aspetta un attimo, che succede? Che succede? Diffondi iniziative. Allora, quando mi è arrivata la segnalazione da parte dei vicini che c'erano movimenti strani accanto al capannone, non ci ho pensato più di tanto, ho composto il 112, poi visto che mi tenevano in attesa, per portarmi avanti ho preso il fucile e mi sono messo in auto. Quando ho visto delle ombre ho sparato dei colpi in aria e questi qua sono scappati. Sai che cosa hanno fatto? Hanno ritirato il porto d'armi e i fucili. Allora restituiamo, come è normale? Normale. Restituiamo subito il porto d'armi e i fucili a questo signore. Beh, fare un accertamento, restituiamo. Poi piccoli accertamenti e poi dopo viene restituito. Accertamenti, normale. Piccoli accertamenti. Allora andiamo a Claudia, Como, andiamo vai. A casa, andiamo ormai. Claudia, che abbiamo appena iniziato, che andiamo a casa. Claudia, Como, È tardi, è buio poi fuori, fa freddo. Pronto, buonasera. Dimmi Claudia, dimmi. Mi dica cosa succede. Ma come cosa succede? Chiamato lei, amica mia, cioè siamo alla follia siamo. Dai, no, forza. Sentivo gli altri giorni che c'era con chi ha la tosse. Con chi ha mal di gola? No, è apparenza. Se c'è qualche problema. No, amica mia, io non ce l'ho con chi ha mal di gola. Lei forse è un po' picchiata. Ecco, lei ha la tosse e mal di gola, va benissimo. Io ce l'ho con Parenzo, che è da un mese e mezzo che mi rompe i coglioni qui alla radio con la sua tosse, ha capito? È un po' diverso. Devo andare in vacanza per un mese, allora, curarmi. Lo lasci stare, poverino. Cioè, sì, ma adesso c'è la solidarietà, c'è la solidarietà sua, che è malata anche lei di tosse, per carità, va bene. Ma lei non deve. Anch'io mi sto curando. Vabbè, ma Claudia, lei può curarsi, io invece non posso curarmi perché non posso assentarmi dal lavoro. Non ho capito, Claudia, che dici? In ginocchio davanti a me. Come in ginocchio davanti a te? Io devo andare in ginocchio davanti a me. Ma io non mi metto in ginocchio davanti a lei nemmeno per gioco, Claudia. Cioè, poi dipende ovviamente dalle situazioni, posso anche mettermi in ginocchio, ma per altri motivi che qui non sto a specificare, alle 18:52. Però non vedo perché dovrei mettermi in ginocchio davanti a lei. No, perché ho visto che continua a dire al povero Parenzo. No, però Claudia, la solidarietà della malattia non mi colpisce più di tanto. Parenzo non fa il suo stesso mestiere, dovrebbe venire in radio un po' più curato. E allora devo stare a casa sempre. Ma non stai a casa, non c'è niente. Devo stare a letto e, se vabbè, Claudia, e non parlare alla Claudia, radio. Claudia, non ho capito, hai chiamato solamente per dirci che... Solo per questo. Solo per questo. Come mai, da quanti giorni soffri di mal di gola? Da un mese, tantissimo. Da un mese pure tu. Lo so, guarda. Ma ragazzi, ma che cazzo me ne frega? Ma che ce ne frega a noi? Allora, non ti dico la marca, devi prendere il cortisone 25 mg, cortisone. E poi andarlo. Io ho preso il cortisone, adesso sto bene, infatti. Cortisone. Devi andarlo. Cortisone devi prendere, che è un'infezione. E io avevo un'infezione proprio al polmone. Ragazzi, capito? Ma possiamo dire, ma sono al medico. Si può dire. Quindi, sti cazzi, aspetta no? Un attimo, cortisone 25, poi per 4 giorni, poi no, vai a scalare perché il cortisone va a scalare. Poi c'è un'altra cosetta che devi prendere, che devi al mattino da tirare su colpo. Ma scusa, ma perché non fai come quelli che non usano le medicine, tutto naturale, eccetera? Tu sei bravo, così mi ritrovi me. Sì, bravo, ma che mai? Perché sei matto? Vabbè, ciao Claudia, ciao. Amici miei, questa mattina davanti al tribunale di Torino, qualche signore è andato a manifestare contro il giudice che ha assolto il pescivendolo, che avrebbe, secondo questi pazzi, estremisti, animalisti, eccetera, eccetera, trattato male un'aragosta mettendola sul ghiaccio perché anche le aragoste soffrono. Capito? C'è stata una manifestazione. Beh, vabbè, guarda, poi dobbiamo riuscire a scovare chi è che ha fatto questa manifestazione. Francesco da Milano, vai. François, ciao. Dimmi. Ciao Cristiano. Ascolta, all'inizio di puntata ho sentito che dicevi la frase che la Chiesa e il Vaticano in marcio, no? Ma ragazzi, scusate, ma quando un monsignore che si deve occupare delle finanze vaticane pensa a scopare con una che gli porta l'amica sua, la cugina, eccetera, questo più di questo. Ma non volevo contestare. Le conversazioni sono quelle, lo dico io. A me? Le conversazioni le abbiamo lette tutte? No, dico io, ma non volevo contestare la frase che hai detto. Volevo solamente dire che sono d'accordo anch'io, in quanto io, essendo ateo, non credente, sono anni che continuo a dire che c'è qualcosa che non va e può esserci anche di peggio. Sì, ma che vuol solo dire questo? Volevo dire. Che vuol dire? Che... Vuol dire che non è che hai scoperto l'acqua calda. Ma l'ho detto all'inizio, l'ho detto all'inizio. E quindi? Non riesco a capire. Come non riesco? Che io sono convinto nella mia ignoranza che fra una ventina, 20, 30 anni, ecco, i credenti diminuiranno al di sotto del 50%, solo quello, io credo che succederà questo e basta. Ma guarda, questa diminuzione c'è già stata. Mario da Verona, vai Mario. Sì, Cruciani, mi fai veramente schifo. Sì, anche tu. Oh. Tu sei veramente l'Isis del giornalismo. L'Isis del giornalismo, l'Isis del gioco. Questa è bella però, non è male. Sì. Dimmi perché? Tutta questa eccitazione all'odio... Eccitazione cosa, all'odio di cosa, scusami? Ma sì, ma non fai altro che smerdare i musulmani, porta pazienza, Cruciani. Io smerdo i musulmani, qualche volta si smerdano anche da soli, signori musulmani. Ci mancherebbe altro. Sì, con quello che fanno, chi ammazza il nome dell'Islam, non è che ammazzano il nome di Mario da Verona, ammazzano il nome dell'Islam. Poi per carità abbiamo fatto mille discussioni nei giorni scorsi, non voglio tornarci sopra perché sennò rompiamo i coglioni alle persone. Però non ho capito questa cosa qua, perché sono io che sobillo le persone, non mi sembra. Ma certo, ma basta sì. Fingire le registrazioni che gli arrivano. Scusa, la gente, ma perché non te la prendi? Ma... i suoi ragionamenti, veramente. Ma scusa Mario, ma perché, giorno, perché invece di prendertela con me non te la prendi con quelli che hanno ammazzato i signori a Parigi, i ragazzi a Parigi? Invece di chiamare per dire che sono io che sobillo, sarò io il problema? No, non sono io il problema. Fermo lì, fermo. Ho capito che con te bisogna parlare solo di figa, perché se parli di figa con te allora si va tutto d'accordo. Quando c'è da fare un discorso serio è meglio parlare con Parenzo, perché ha dimostrato di avere più testa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Cruciani e Parenzo, sono un po' di giorni che vi cronometro. Allora, la pubblicità e varie soste sono più del 30% del tempo che passate a parlare. Ma che trasmissione è questa? È una trasmissione di pubblicità, eh? Di traffico, di minchiate, di che cazzo è? Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte al giorno. Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Ragazzi, a proposito di dietrologie su Parigi e dintorni, so che vi siete fatti due palle così, però questa è un'altra storia, non parliamo di Islam, cose radicali, eccetera, eccetera, se volete intervenire voi, intervenite e dite quello che volete, ma c'è un signore che ieri era a Matrix, programma condotto al signor Telese, Fulvio Grimaldi, te lo ricordi, signor Fulvio Grimaldi? Ma certo, l'ex inviato del TG3, quello che girava col bassotto. Col bassotto, sei numero uno. Molto bravo Grimaldi, vecchio comunistone, no? Credo, vecchio comunistone. Vecchio comunistone, e scriveva su Liberazione quando c'era Sandro Curzi. E quando ci ho scritto anch'io per un periodo. Tu secondo te i giovani che ascoltano la Zanzara gliene frega qualcosa di Liberazione di Sandro Curzi? No, spiegami questa cosa. I giovani che seguono la Zanzara qualcosa di queste anticaglie, di queste cose archeologiche? No, ma è vero, chiedo scusa. Forse la gente più interessata è Eliana Miglio, che ha messo a dura prova la fama di Playboy. Adesso che ci fai pensare, probabilmente hai ragione. Eliana Miglio ha messo a dura prova la fama di Playboy del giornalista Cruciani di Radio 24. Come? Ciao. Semplicemente offrendogli una sana tisana. Ciao. Racconterò le cose come sono signora andate. Miglio. Come sono andate veramente. Miglio, non parente di Gianfranco Miglio, Non credo. L'ideologo non credo, della Lega. Non credo, non credo. Questo lo dico con sicurezza. Però ragazzi, qui c'è una cosa molto seria. In questa redazione della minchia. Ma perché è dato due di picche questa? In questa redazione, stai zitto, cioè, tempo al tempo. In questa redazione della minchia qualcuno mi ha sottratto Novella 2000 che ho testé in mano. Beh. Capito? Mi ha sottratto, non lo trovo più. Perché va a ruba adesso. Va a ruba. Roba incredibile. Eliana Miglio. Ma basta, ma non la conosce nessuno pure grande questa. Grande ospite della Zanzara, Eliana Miglio. È un'idea, mi hai dato un'idea, però non credo. Questo non credo. Così verifichiamo. Cioè, come al incazzato, mi hai interrotto. Che stavo dicendo? Scusa, che stavo dicendo? Mi hai interrotto. Fulvio Grimaldi, Luca Telese e Matrix. Sì, esatto, Fulvio Grimaldi, che ha espresso ieri alcune teorie sulla strage di Parigi. Ho sentito. Sentiamo. Questi qua, questi fanatici, come mai poi sia davanti alle Torri Gemelle sia a Parigi eccetera sono dei grand viveur, sono dei bevazzoni, vanno nei locali notturni, fanno i puttanieri, si drogano, smerciano droga, spacciano eccetera. E sono fanatici integralisti che si immolano. Quindi non sono veri fanatici? Ma certamente non sono veri fanatici. Vanno nei locali notturni, si drogano, eccetera, sono assolutamente anti-islamici e di conseguenza sono un'espressione di qualcuno che li manovra in questa direzione. Sono manovrati. Per far sembrare che si tratta di un islam integralista, fondamentalista, eccetera, barbarico, che assalta la civiltà occidentale. Qualcuno che vuole imporre un certo potere, mantenere il trasferimento della ricchezza dal basso verso l'alto, che è il meccanismo del neoliberismo. I poteri, i nostri regimi, i grandi poteri finanziari che hanno interesse in Occidente. Non ci sono grandi poteri finanziari in altre parti del mondo, sono tutti in Occidente, sono tutti a Wall Street o nella City di Londra. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Le teorie di Grimaldi, eccezionale. A proposito di marcio nella chiesa, dopo quello che avete sentito, i messaggi tra un monsignore e una signora che dovrebbero amministrare, anzi riformare le finanze del Vaticano, invece si scambiano sostanzialmente messaggi porno, diciamo la verità, su una cugina da dare in pasto al monsignore, una cosa incredibile, pazzesca. E per pedopornografia oggi è stato arrestato un sacerdote a Brindisi, già condannato per atti di libidine, Don Francesco Le Grottaglie. Sì, dai, tutto finito qua, è tutto finito. Cesare da Udine. Ma è famoso questo. Cesare da Udine, dai, Cesare. Buonasera, come stai? Dai, Cesare, dimmi, bene, bene. Bene, bene. Vai, amico mio, devi parlare o no? Ragazzo mio, un attimo solo, devo togliere di nuovo. Ma che devi fare? È un'ora e 40 che ti sto aspettando, dammi un attimo. No, perché? Va bene, siccome avevo sentito un vuoto, allora, stavo chiedendo. Risolvi un problema al Creme Cloud di Udine. Come? Devi risolvermi un problema. Sì, dimmi. Stravecchio o d'originale? Come? Io? No, che né stravecchio né originale, antico toscano, l'antico toscano fumo. L'antico, grazie, mi hai appena fatto perdere una cassa di picolite, grazie. Una? Una scommessa? Una cassa di vino, avevo fatto una scommessa insieme ai miei amici guardando le foto su cosa fumavi. Sì, antico toscano, di solito antico toscano, però insomma anche l'originale non mi sottraggo, diciamo, nella mia classifica, lo dico agli amici del sigaro se vogliono farmi un regalo, non scherzo, naturalmente non accetto regali, antico toscano, poi c'è l'originale al numero 2 e poi direi basta, antico toscano e originale. E poi c'è la Miglio, Eliana Miglio dopo. Oh, è un'amica che ho accompagnato a casa, Ma tu non hai mai accompagnato a casa nessuno, ti pare che accompagni a casa, ma nessuno. Assolutamente, mi ha chiesto di essere accompagnata a casa. Ma che? Non hai mai accompagnato a casa nessuno, se non con un secondo fine. Cesare da Udine, ma non sono andata a casa di Totò Riina, mi sembra, no? Non sono andata a casa di Bernardo Provenzano. Questo devi dirglielo alla Sant'Anche che ha pubblicato questo servizio fotografico. Ancora non è in carica la Sant'Anche. Ottimo articolo del direttore Mondonico. Ma non è direttore Mondonico. Deve essere fatto direttore. Un cronista bravo. Come ha scritto molto bene, peraltro, ha vergato alla fine dicendo: tanto il nostro fotografo ha dovuto aspettare giusto 10 minuti sotto casa la sua uscita. Cruciani, non mollare, sarà per la prossima volta. Ma stavolta ante la data. Cesare, dimmi. Mondonico. No, nuovo Pasolini, nuovo Moravia, Mondonico. Bravissimo, dai. Mondonico. Dai, su, non è l'allenatore del Torino, però. Fenomenale. Come? Fenomenale, te lo so dare. Riesce, mentre parliamo di cose serie, ti rendo. Vabbè, ma che mi volevi dire a parte il sigaro? Perché qui abbiamo parlato della signora Eliana Miglio, di Parenzo, di Novella 2000, sì. della tosse di Parenzo. E adesso tu mi dici del sigaro. Andiamo a qualcosa di concreto, appunto, divento pazzo oggi. Qualcosa di concreto è questo. Il tuo sodale, il buon Parenzo, sì, fa questa distinzione. Sì. Sì. Quando tu ti difendi in casa tua, devi fidarti della magistratura. Tanto loro risolvono tutto. Questo è. Ma lui si fida ciecamente dalla magistratura. Ma chi ha detto mai una roba simile? Sì, tu, sempre, di tanto. Io, magistrati, ci sono le sentenze. No, ho detto che è normale. Vabbè, che poi uno venga, vabbè, sì. Ok? Però quando vado a puttane, non devo fidarmi della magistratura. Mm. che in se che io senso? Vado a puttane e c'è un reato che è lo sfruttamento della prostituzione. Ma quello non c'entra niente, che tu vai a puttane. Niente. Tu vai a puttane, puoi andare a puttane tranquillamente, senza problemi. Certo. No. Tranne i casi in cui ti vogliono multare, vabbè, c'è multare, ma no. E secondo Parenzo devo essere multato perché sfrutto qualcuno. Ma no, sì, ma perché sei un miserabile, non c'è il reato, perché sei un miserabile. Ma che io che mi fido della magistratura e so che loro intervengono nel caso di sfruttamento di povere signore, quando vado in giro per strada dovrei essere sicuro che essendo intervenuta la... No, però scusa, io capisco che l'attesa ti ha dato un po', ti ha anche un po' disorientato, però qui dobbiamo andare al concreto, cosa cazzo vuoi? Voglio che quell'altro... simpatico ragazzo che ti accompagna, sì, mi spieghi perché nel momento in cui io sono sotto inchiesta devo fidarmi della magistratura. Ma cosa c'entra? E quando c'è nessun paragone non devo fidarmi che la magistratura sia già intervenuta e abbia risolto il problema. Vabbè, tanti auguri. Ora da Milano, non si può rispondere niente a questa roba. Non rispondere, dai, Denis D'Alecco, si chiarisca un po' le idee e poi ci faccio una domanda più chiara. Denis D'Alecco, vai. Sì, ciao, volevo chiedere a Parenzo una cosa. Esempio, ultimamente vedo che segue in modo assiduo Giulietto Chiesa, che è un giornalista molto preparato, con grande ma non segue, non segue assiduamente Giulietto Chiesa, per niente. Giulietto Chiesa ci ha dato dei cialtroni, delle teste di cazzo, eccetera. Siamo confrontati, ma non condivido neanche una virgola di quel che dice teste Chiesa. Di cazzo, io l'ho sentito alla radio e poi alla gabbia e vedevo le faccine che faceva. Eh beh, certo. Vabbè, dai, forza Denis, forza, dai. Un'altra cosa è quella, oltretutto, cosa mi dà molto fastidio, prende per il culo anche i 5 Stelle che sono un... amico mio, che cosa devi dire? Io stasera vado ai matti se non siete sintetici. Sono le 19, 28 e 49. Cosa minchia vuoi dire, Denis? Voglio dire che sembra quasi che questo Parenzo serva i soliti noti a sbugiardare, a sputtanare la gente. Cioè, come si può criticare i 5 Stelle che hanno creato una coscienza dei giovani? Vabbè, il discorso è troppo lungo sui 5 Stelle. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Devi raccontare qualche altra cosa? Sì, volevo raccontare sempre una storia legata a furti e ladri. Io ho avuto un'esperienza molto negativa qualche anno fa. Sì. Tre albanesi stavano cercando di entrare in casa mia. Sì. Una loro mi hanno trovato sveglio. Sì. Una colluttazione, sono scappati con la macchina, io ho chiamato i carabinieri, ho comunicato la targa, i carabinieri bloccano uno di questi, e due sono entrati in una villetta, hanno rubato una macchina, hanno lasciato il terzo idiota senza automobile, dunque? È stato arrestato, processo direttissimo il giorno dopo, vado. Mamma mia che lentezza, finale. Ragazzi, lo so. Qual è la sostanza, Denis? Che è successo? Aspetta, ma aspetta, vado. Cosa? Che devo aspettare che si fa tardi? Finale. Cioè, sei in Italia, in un paese di pazzi, ti spiego, esce dal processo, questo mi guarda in faccia, si mette a ridere e se ne va. Chiedo all'avvocato che l'ha seguito, ma dove sta andando? In galera? No, è libero. Vabbè, perché non aveva rubato nulla fino a quel momento, no? Ali mortacci, erano in tre, associazione a delinquere, sta entrando in una proprietà privata stasera. Sì, sì, per carità, ma ti capisco, purtroppo. No, se non li prendono con le mani nella marmellata, non succede nulla. Fermo lì. Cruciani, tu che parli sempre di figa, ma lo sai che le persone che ne parlano spesso poi alla fine non combinano niente? Mi sa che invece quel Parenzo, lui sia un gladiatore del sesso. Mi sa proprio di sì. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Uno finisce la sua giornata di lavoro, aspetta la zanzara per sfogarsi e alle 7 arriva il colto interrotto del 2015, il GR24, basta! La zanzara. Ah!

No, ma ti giuro, lo studio ha individuato i neuroni nel cervello degli esemplari maschili di vermi, di alcuni vermi. Ma dai. Ti giuro. E ci voleva l'università? Ma tu ti rendi conto o no? Cioè, se i maschi hanno sempre il sesso in testa, la colpa o anche il merito è di alcuni neuroni specifici. Ma tu che sai credo, hai. Ma di che cosa dovrebbe essere? Hai di questi neuroni? Non lo so, questo lo dici tu. Mi scrivono dal telefonino, sì. Roberto Poletti ci ascolta da un taxi. Sì, beh. Mi ha scritto. Come si chiama il taxi, Poletti? Poletti, come si chiama il taxi che ti sta trasportando? Dacci un nome del taxi, il nome del tassista e il nome della... Forza, no, Simbo. Dai, forza, lavora. Dove sta andando Poletti a fare casino stasera per Quinta Colonna? Dove sta andando? A accendere qualche situazione. No, Quinta allora, Colonna, allora, lei come c'è? Sta? Islamici, bastarda, allora? Qualche situazione così vagamente esplosiva ci sarà. No, non è Quinta Colonna, ma come si chiama? Come si chiama poi? Livorno 43, Emanuela. Dov'è? A Milano? Dove sta? Torno da Roma. Ma dove sta? Livorno dove sta? 43. In che se località? Torna da Roma vuol dire che sta andando, sta tornando da Roma. Per andare dove? Per stare dove? Sarà lì a Milano. Ma che ne sai? Comunque Livorno 43 tal Emanuela dice. Beh. A Milano, sta a Milano, ecco, me l'ha scritto ottimo. A Milano. Beh. Roberto da Catanzaro 800240024. Vai Roberto. Giustamente un altro scrivere povero tassista. Perché povero mi scrive tassista? C'è un altro tassista di Milano che si chiama Alberto, mio amico. Si è deciso, mi scrive povero perché c'è a bordo Poletti. Roberto Catanzaro. Cioè vai. Adesso si scatena nel mio telefono, vedo una discussione su, capito? Vai Roberto, dimmi. L'altro risponde. Buonasera ragazzi, vi adoro perché siete un programma senza peli su lingua proprio. Vai, dimmi. L'altra sera ho sentito un discorso su David, lo lasci parlare, cazzo, non si può fare la radio con tu che parli in sottofondo, minchia, ma non è possibile. Poletti che ha scritto zero controllo. Ma non me ne frega niente, ma dillo dopo, dai Roberto, su. Se uno fa la radio, c'è uno quello parla in sottofondo, tu dici un'altra cosa. Ma parla, ma se quel Poletti mi scrive robe, indicazioni, sì, ma ci sono notizie, la radio ha i tempi per parlare, hai tempi, sì, ci sono i tempi, Roberto, dai. Sì, l'altra sera stavo ascoltando un discorso relativo agli omosessuali, a chi insomma chi predilige essere trans perché è sculetta. No, non ho capito, chi l'ha detta questa cosa qua? No, ah sì, c'è uno che ha detto. Sì, c'è uno che ha detto i trans che sculettano, non mi ricordo. Allora? Sì, diciamo, vi domandavate come mai, ma perché? Io posso dirti la mia, personale, che magari non è la risposta, perché a me quando lo faccio, visto che sono un po' omosessuale, sei? Un po' anche omosessuale, mi piace. Cioè, in che senso sei un po' omosessuale? No, dici tu, sei omosessuale. Sia le donne sia. No, lui, no io. Io, sì, io. Lui ha detto, mica io, a me piacciono solo gli uomini. Per carità, no, perfetto. Cioè, no, mi piacciono solo le donne, scusate, ho avuto un lapsus. Essendo, diciamo, usando un termine moderno, essendo un bisex. Tu sei bisex, diciamo, questo è buono, questo qua è buono, un ascoltatore bisex è ottimo. Allora però deve essere vero Roberto, non ci raccontare cazzate che lo scopriamo subito. Sei bisex, Roberto da Catanzaro, non Roberto dal taxi, Roberto dal Catanzaro. No, così, così. Così. Aspetta, ti devo leggere questa di Poletti però, perché questa è molto divertente. Ma ha scritto quel coglione di Poletti, perché le persone vanno chiamate col loro nome. La tassista ha detto duro Parenzo, l'unica donna che lo ha detto negli ultimi anni, il commento di Poletti. Cioè ti rendi conto, Poletti? Signor Poletti. L'unica donna che l'ha detto, no, lui, bellissima ha battuta. Fatto il commentino. La tassista ha detto, però, duro Parenzo. Commento di Poletti, l'unica donna che l'ha detto negli ultimi anni. È veramente, sai che è veramente una persona, una brutta persona. Chi, quel Poletti? Poletti. No, io lo adoro. Mamma lo adoro. Mia, lo adoro. Il Poletti. Tu devi sapere che Poletti, Roberto Poletti, adesso spieghiamo per chi non lo sa. Ah, poi vi ha scritto anche Bistecca. Sai chi è il mio amico Bistecca? No, ma ragazzi, pure io te sto ascoltando. Ma chi è Bistecca? Chi Bistecca? È? No, Bistecca è meglio che non lo conosci, perché altrimenti. Ti dà una passata Bistecca. Ma chi se lo incula Bistecca? No, persona molto per bene. Roberto da Catanzaro. Allora sì, Roberto, che stavi dicendo? Sei bisex, scusa, sei bisex. Sì, no, è quando diciamo si sculetta, perché l'uomo che... Ma scusa, non ho capito, tu sei bisex, però adesso non lascia perdere lo sculetto, tu sculetti un po'? Sì, certo. Quando, vabbè, non è che tutti quelli bisex sculettano, amico mio. No, infatti ho detto io sculetto, perché quando mi calo nella veste di donna, sì, mi piace comunque imitarla, ecco, anche nel suo... Ecco, modo. Ma che vuol dire esattamente che tu sei bisex? Cioè, allora, concretamente, cioè, sei bisex al 100%, cioè sei 50-50, cioè a voile e a vapeur, come si dice in francese? Diciamo che sono... E allora purtroppo è una cosa, purtroppo, dico purtroppo perché, diciamo, nel meridione ci sono pregiudizi che ti mangiano, quindi purtroppo non puoi essere sempre libero di fare quello che vuoi, quindi lo sono quando posso esserlo. Sì, sì. Altrimenti, sai che il mondo potrebbe diventare bisex, Parenzo? Cioè il mondo potrebbe, nella trasformazione in che c'è in atto, cioè ognuno di noi ha una sua parte femminile in fin dei conti, no? Però... una sua parte, sì, anche tu hai una tua parte femminile. Sì, però è preponderante, cioè, molto al 90.9% quella maschile. Però si andrà verso un mondo dove molti di noi scopriranno la loro omosessualità. Ma chi te l'ha detto? Sì, alla fine sarà così. Ma guarda che non cambia nulla rispetto al passato, solo che adesso la gente, a differenza del passato, lo dice di più. No, lo dice meno. Soprattutto ha meno tabù e dunque esatto, ma non è che aumentano, cioè anche la teoria come se diminuiscono, è una roba statistica, dice là, oggi sono aumentati, no, se sarà uguale a questo prima, lo pensa, no? Il tuo amico amicone che aumentano il numero dei gay magari, no, no, sei tu che dici che aumenterà. No, stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo dicendo semplicemente un'altra cosa. La gente per fortuna oggi si sente più libera di qualche anno fa, nonostante l'omofobia, come dire, imperante, ma l'omofobia nonostante queste forme, no, coltiva più liberamente la prova parte omosessuale, cioè andiamo verso un mondo bisex. Allora, ecco, Roberto, la dimostrazione, l'incarnazione, la fotografia di questa situazione è Roberto da Catanzaro, che ci ha chiamato una volta, non succedeva, da Catanzaro, dicendoci, puoi anche dire il cognome, caro Roberto, dove lavori, dove stai, cioè, vabbè, con la voce sei riconoscibile. Signori di Catanzaro, abbiamo Roberto che è bisex, a voile e a vapeur. Non entro nei dettagli, tu in che modo vai con gli uomini, caro Roberto? No, allora, io diciamo nella mia vita ci sono andato solo una volta con gli uomini. Ma che omosex, che bisex sei? Allora, scusa, ma hai mai deluso? Che bisex sei? Lo so, magari volevi che fossi un po' più con un curriculum più aperto, diciamo. No, vabbè, comunque sei andato con un solo uomo, hai scoperto da poco allora la tua bisessualità. Sì, diciamo che non è da molto, però ecco, come dire, è qualcosa che sentivo. Che però sentivi? Sai, quando sei ragazzino dici no, ma può essere, ma non è possibile. No, quanti anni hai, Roberto? Insomma, sono sui 30, diciamo. Adesso. Sui 30. Sì. A 30 anni hai scoperto che ti piacciono anche gli uomini. Ma quando da sei andato con un uomo? Quando è che sei andato con quest'uomo? Chi è che mi chiama a quest'ora? Roberto, dai. Qualche anno fa, diciamo. E basta, solo uno ne hai avuto? È stato solo uno, è stato un gioco, poi non è che è stata una relazione d'amore. Ecco, vabbè, ma allora che hai fatto? Non hai fatto niente? Che hai fatto? No, abbiamo trombato, ecco. Cioè, lo hai preso dietro? Sì. Beh, amico mio, che ti vuol dire? Tanto di cappello. Ci stanno un sacco di veloci in giro, voglia te. Io sono un vero porco della vecchia maniera, cioè a me piace la figa. Sì, vabbè, questo era un ascoltatore. Però dico, Roberto, capisco, però adesso qual è l'interesse di questa cosa? Parenzo pure si chiede, l'interesse. Il momento della telefonata è nata perché, ti ripeto, l'altro giorno poi tu mi hai fatto queste domande, io ti ho risposto, però il motivo della telefonata era perché l'altro giorno avrei voluto risponderti, non ti ho chiamato sullo sculettare, ecco, era giusto tutto lì. E poi diciamo non volevo turbare nessuno, ecco, o comunque non volevo fare discorsi, era giusto dire quello. Ma sei sposato? No. Sei fidanzato? Comunque, sei fidanzato? Sì. Molto spesso ho relazioni con donne, sì, non mi piace essere fidanzato. Non ti piace? No. Però sai, a un certo punto quando uno prova quella roba lì poi è difficile tornare indietro, cioè l'omosessualità vince su tutto. Beh, perché secondo me l'omosessualità alla fine vince su tutto. Quando... allora io dovrei essere, pure a casa mia dovrei essere vestito da donna. No, invece perché c'entra? Non è che tutti gli omosessuali si travestono, quello è un altro discorso, che vuol dire? Ah, ok, pensavo di... Ma perché tu ti travesti pure? Notizia bomba se vuoi, eh? No, però sinceramente ci sono stato un paio di feste di carnevale che con i miei amici... Non me ne è fregato assolutamente niente, mi sono vestito da donna, a ridere, a scherzare. Vabbè, Roberto, ciao. Parenzo, quella è una notizia bomba, dai. Un tuo amico è diventato capo ufficio stampa della Rai. Ma chi se ne frega? No, non me ne frega niente a me di queste cose, non me ne può fregare di meno. Coldagelli, capo. Ma non me ne può fregare di meno. Coldagelli, sì, va bene, sono contento, però che cazzo me ne frega a me adesso? Ma chi interessa le persone? Anche. Ma le persone ma non interessano. Ma questa trasmissione è vita, questa trasmissione è tutto. Ma perché parli sempre degli amici tuoi? Che tra l'altro in questo caso è un amico mio, ma non c'entra, ma non l'avrei detto. Ma la trasmissione è tutto, è Coldagelli ufficio stampa della Rai, è la Miglio ad esempio, è la signora attrice Eliana Miglio, guarda, che secondo Mondonico ti devo prendere a calci in culo perché tu parli porta. Solo di persone. Eliana Miglio ti ha messo alla porta, questa è un'altra notizia pubblicità, importante, dai, che ragazzi, abbiamo dato oggi. Ma hai rotto i coglioni stasera, pubblicità, dai. Ma come ti piacerà la decesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io lo vedo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. Allora ragazzi, dopo un po' di giorni di pausa per vari motivi, ritorna il meglio o il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Andiamo alla guerra! Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Vai, ascoltatore! La giustificazione del musulmano che non ha dato la mano a una ragazza italiana, gli giustificano dicendo che praticamente se gli danno la mano alla fine gli potrebbe anche tirare qualcosa, no? No, io invece dico che quando andiamo nei bar e loro si strusciano facendo finta di passare in mezzo a due ragazze, alle nostre ragazze, quello che cos'è? Per me invece quello lì ha fatto un atto solo perché questa è un'italiana. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Come e con quale coraggio la Sette, il giornalista Paragone oppure a volte anche Garlerner, riescono a proporre agli italiani un signor Parenzo come opinionista o commentatore, che secondo a mio parere alla mattina trovano il foglietto sulla scrivania di quello che devono dire e sono pagati per farlo, punto e basta. Fuori, senza dubbi neri pensamenti. E quella signora che si è innamorata è ben per lei. Io spero per lei che suo marito non segua il Corano, perché sul Corano c'è scritto che battere ogni tanto la donna non è peccato. Poi se le prende un passamanone da suo marito dopo, non vado dai carabinieri a denunciarlo, se lo tiene perché è bravo. Guida il popolo nella tempesta come una madre e un figlio. A me mi fa sorridere quando ascolto al mattino ogni tanto che mettete la cosa di Vendola che dice no, si fa tenere musulmani, ma lo sa quelli come lui, musulmani quello li fanno. Perché le tagliano, cioè, le tagliano la testa con la centrale l'acqua che hanno aspirazione sessuale come la sua. Libertà. Detto belle cose, ma io di integrazione non ne voglio nemmeno sentire parlare. Non li voglio, li mitraglio alle frontiere come arrivano. Quello bisogna fare, perché loro a noi ci mitragliano. Padania bella e libera, guardavano. Ma sto là, sti dì che ci sono, li hanno visti. Anche il Dio cristiano, io non l'ho mai visto, come non ho mai visto il Dio là. Avevano scambiato qualche alieno per santi. Dopo la morte non c'è niente, si convincono, sono solo dei pazzi e fanatici, pericolosissimi. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Umberto, provincia d'Imperia, vai. Vai Umberto. Cruciani, buonasera. Senta, io volevo far presente, senza offesa. Sì, aspetta, dove sei? Che si sente un rumore pazzesco. Umberto, dove sei? Aspetta un attimo. Sono qua. Ecco. Dai, dimmi, allora, volevo dire, senza nessuna offesa, io però volevo farle rilevare la sua grandissima e totale ignoranza, sì, per quanto riguarda il mondo animale e il rapporto che c'è fra questo e l'uomo. Sì. Io ho la fortuna di vivere con dei cani, ho una capra, delle galline, e le dico... Ma io non ho mai... Perché? Che cosa ho detto? Scusa, non ho capito, che non puoi vivere con una capra, con una gallina, cioè puoi fare quello che ti pare, cioè qual è il problema? No, il problema è che lei non capisce che il rapporto fra l'uomo e l'animale diventa poi profondissimo. C'è un'interazione fra uomo e animale. Ma va benissimo, se tu vuoi instaurare un rapporto profondissimo con un animale, con un animali, sì, è uguale alla nostra. Ma sì, ma d'accordo. Questo è il discorso. Ma la gli animali meritano rispetto, sì, e considerazione, perché, sì, ci danno tanto, l'affetto. Loro capiscono quando un umano li vuole bene, capiscono quando invece questi li vuole fare del male e ne soffrono, perché ripeto, l'interazione fra uomo e animale è fortissima. Sì, ma io non nego questa cosa qui, c'è persino chi pensa di parlare con i maiali, per esempio, ho letto in qualche giornale, quindi, c'è gente che aspetta. Quindi lei, il fatto che ha trovato assolutamente assurdo che qualcuno abbia fatto poi in tribunale il pescivendolo che metteva l'aragosta viva sul ghiaccio. Ah, è normale secondo te? È normale? Ad esempio che nel comune dove io vivo, Sanremo, c'è un regolamento sul peso degli animali che vieta questa cosa, tanto per incominciare. È normale che uno vada in tribunale e che si spendano dei soldi, si sprechi del tempo, della carta, della burocrazia? Se sono nella mia città, questo signore verrebbe multato. Ma perché quale non multa? Si infliggono sofferenze gratuite agli animali. L'aragosta, ragazzi. Ma non c'è niente da fare. L'aragosta. Come la gallina. Ma dai, su, ma non diciamo stronzate, dai, su. Lei che non ha avuto nessun rapporto mai, suppongo, con nessun tipo di animale. No, per fortuna no, guarda, rapporti non ne ho avuti. Per fortuna degli animali no. No, per cose non le capisce. No, rapporti di altro tipo, per fortuna no, cioè non per fortuna. Guardi, guardi, Cruciani, io ero come lei. Poi ho avuto la fortuna di venire in campagna con mia moglie, così di vivere insieme. Ma va bene, ma ognuno può fare quello che vuole. Ho capito questo e mi dispiace che lei invece questo bellissimo rapporto, cioè proprio animali, ma chi ha detto lo giudica Umberto, in maniera Umberto molto superficiale. Umberto, ecco, ma ho capito benissimo. Umberto, tu puoi fare quello che vuoi, puoi avere tutto il rapporto che vuoi con gli animali, ma non mi puoi dire che è normale se uno pensa di parlare con i maiali. Non mi puoi dire che è normale se uno si incazza, aspetta, se uno si incazza semplicemente perché vede la ragosta soffrire sul ghiaccio. Per me quella è follia, amico mio. No, è follia. È con noi Fulvio Grimaldi, eccolo qui, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Ciao Fulvio, ma dov'è il bassotto? Il bassotto c'è sempre qua e quindi avendo il bassotto, essendo alla fine di una dinastia di bassotti che è data da moltissimi anni, non posso non dichiararmi anormale e folle a proposito del discorso dell'aragosta. No, però scusa, perché pure secondo te soffre l'aragosta, scusa, non mi dire che credi pure a questa cosa qua, Fulvio. Ma perché... assolutamente, io non vedo che ci debba essere il gusto di lusso di un consumatore uomo per che comporti poi la sofferenza effettiva di un animale che tra l'altro non soltanto viene messo sul ghiaccio, ma viene anche messo vivo nell'acqua bollente. Non è necessario, è un eccesso. Si può anche benissimo mangiare roba che non comporti delle sofferenze per qualsiasi essere vivente. No, però scusa, io non sapevo che tu avessi anche questa cosa qui. Scusa, sono anormale, sono folle. Fulvio, per carità, se uno dei. Conosco da Fulvio Grimaldi, certo che lo sapevo. Se uno dei re del complottismo italiano, meraviglioso, stupendo, eccetera, se un ricercatore, uno di quelli che fa inchieste, cose che pensa delle cose anche curiose, va benissimo, ma addirittura pensi che sia un problema mettere l'aragosta o un crostaceo dentro l'acqua bollente, amico mio? Amico mio, te l'hanno già detto gli altri e te lo ripeto io, non credo che sia necessario far soffrire degli animali per il gusto abbastanza specista e abbastanza specista, eccessivo, oddio, di una persona, non vedo la necessità, insomma. Ma la necessità perché è buona, ma è buona. Ecco, vabbè, fai un discorso abbastanza egoistico. Ma non è egoistico, è buona, è l'aragosta, amico mio, l'aragosta, ce ne sono un sacco di aragoste, ma tu che cosa mangi, Fulvio, scusa, per curiosità, cosa mangi? Cerco di mangiare cose che non comportino la sofferenza eccessiva di animali, allora, le possibilmente nessuna sofferenza per gli animali. In ogni caso, anche le piante, quando le piante possono soffrire. Senti, se vengono uccisi, possono essere uccisi senza che soffrano, abbiano la paura della morte o soffrano durante l'esecuzione. Questo è possibilissimo, è una cosa che praticamente è stata imposta per legge dappertutto, quindi è un segno di civiltà, mi sembra. Ma lasciamola stare. Tu hai parlato di complottisti, ecco, io penso che da altre parti del mondo vengono descritti come vengono definiti giornalisti investigativi. È una facile parola per no, dire Fulvio, delle... Fulvio, non volevo dire che sei un demente, per carità, però per carità, volevo capire una cosa, secondo te, da chi sono stati mandati questi qua che hanno ammazzato a Parigi, perché la tua tesi è che sono stati mandati da qualcuno, che c'è qualcuno che ha manipolato questi signori, questi ragazzi, giusto? Allora, se andiamo un attimino all'origine, sappiamo, ed è stato dimostrato, tutti ormai accettano, dopo parecchio tempo in cui pochi complottisti lo dicevano, che questi jihadisti dell'ISIS e di Al-Nusra sono finanziati, alimentati, nutriti, foraggiati da alcuni paesi arabi ben noti, che sono l'Arabia Saudita, eccetera. Allora, se questi sono i nostri alleati e sono coloro che condividono con noi le strategie della NATO, allora? Via, eccetera, allora vuol dire che i loro mercenari, quelli che loro finanziano, addestrano, sostengono, eccetera, possono anche trasferirsi un giorno o l'altro in Europa e fare una cosa che comporti una... Cioè a chi giova? A chi giova tutto questo, tu dici? A chi giova? Ma intanto giova a coloro che ci tengono a fare delle guerre, che vivono di guerre, che vivono di armamenti, di forniture di armi, perché ogni... Cioè per esempio Israele comporta... pure Israele ha dei vantaggi da questo? Beh, Israele è uno dei massimi esportatori di armi del mondo, oltre a comprarne per... Cioè, secondo te, dietro le stragi di... non ti stupiresti, anzi forse lo sai e ce lo dici, che dietro le stragi di Parigi non ti stupisci se c'è Israele? No, io non dico una cosa di questo genere, non ho le prove, ma allora, con la logica del classico complottista. Dico, questi vengono finanziati, sono conosciuti, vengono importati da nostri alleati, poi vengono qua e danno un colpo a noi, di conseguenza c'è qualche cosa che lega... Cioè tu dici non c'entra niente, non c'è la teoria. Cioè tu dici non c'entra niente il... La simpatica teoria crolla nel momento in cui, ammesso non concesso quel che dice Fulvio, ma il momento in cui l'ISIS stesso rivendica questi attentati. Vabbè, cioè, quello che c'entra. No, quella... ma qui crolla tutte le... Però scusa un attimo, fammi capire. Ha invaso parte della Siria, sì. Controlla parte dell'Iraq. Non è certificata da un notaio. La rivendicazione può fare qualsiasi che si attacca a un telefono. Scusami, Fulvio, spiegami una cosa. Ma secondo te, dunque, il fanatismo islamico non c'entra niente, è tutta roba... Allora, il fanatismo islamico mi sembra sconcertante quando lo si applica a coloro che hanno fatto queste operazioni prima a Charlie Hebdo, oppure alle Torri Gemelle, oppure a Parigi. Sai perché? Perché questi qua di fanatismo integralista non hanno nulla. Di questi si è scoperto che sono dei grand viveur, che sono dei puttanieri, che vanno nei locali notturni, che fanno i biscazzieri, che spacciano droga, che si drogano, eccetera, tutta roba che l'Islam non consentirebbe. Beh, però tu lo sai che l'integralista prima di fare gli attentati che fa queste cose e poi si mola per Allah, è una incongruenza totale, non ti sembra? Beh, no. Perché in realtà molti di questi terroristi hanno messo nella loro disciplina, ed è diffuso nei loro libri che si trovano anche in rete, che prima di fare questi attentati e di finire poi tra le braccia delle famose vergini nel paradiso, possono ubriacarsi, cioè l'unico momento nella vita in cui prima di compiere e poi comunque i peggiori integralisti, i peggiori integralisti, Fulvio, dell'Islam, nulla del Corano dice una cosa del genere. I peggiori integralisti, il Corano non dice delle Torri Gemelle, erano dei grandissimi putanieri, vivevano alla grande, vivevano nel lusso, eccetera, erano tutto fuorché fondamentalisti. Per cui l'11 settembre chi l'ha fatto? Io non ti rispondo perché non ho le prove, posso soltanto dirti che adesso un fatto abbastanza importante sia che 3.300 più noti, più prestigiosi, architetti, ingegneri, tecnici delle costruzioni in alto hanno fatto un documento in cui chiedono, dopo aver dimostrato che quella era una demolizione controllata alla base dei fotogrammi che fanno vedere le esplosioni di piano in piano, hanno chiesto al governo una nuova inchiesta indipendente, non più quella a cui Bush ha negato un... Cioè allora che vuol dire? Che vuol dire? Che sono crollati da soli? Non ho capito. Sì, sono crollati per esplosivi collocati all'interno. Questo è un crollato tecnico. Dai, su Fulvio! Guarda, il fatto è questo, che noi non siamo abituati ad ascoltare le voci degli altri. L'altro giorno, poche settimane fa, è stata uccisa una giornalista americana di origine libanese che si chiamava Serena Shim. È stata uccisa dopo aver denunciato e illustrato con documenti, video e fotografie che i turchi mandavano in Siria colonne e colonne di guerriglieri, di jihadisti e di rifornimenti in armi. Avendo dimostrato questo, è stata subito minacciata di morte dai servizi segreti turchi e dopodiché il giorno dopo aver denunciato questa la sua emittente, che la presta, ma questa è un'altra cosa, è un'altra roba questa. Però scusami, ma dell'ambiguità Fulvio, dei turchi si sa, lo descrivono tutti i giorni, le voci degli altri vengono eliminate. Guarda che quando io ero in che fanno? Volevano eliminare pure te. Le prime cose che hanno bombardato gli alleati sono state i centri televisivi. Fulvio, perché non vuoi ascoltare la voce dell'altro? Hai paura che l'altro... Scusami, Fulvio, ma tu sei ancora un po' comunista o no? No, io non c'entro, questo non c'entra niente, è una domanda provocatoria. No, ma così non c'entra. Sono sicuramente contro coloro che campano di guerre, che prosperano sulle guerre e che le guerre le trasformano anche in... No, ma sei ancora un po', comunista o no? Ma sei ancora un po' comunista o no? No, no, io non ti rispondo su questo. Un po' comunista sarebbe grottesco. Io sono profondamente convinto che Marx abbia detto delle cose fondamentali ancora oggi, valide per l'economia. Signor Marx, valide per l'economia. Il signor Marx, sei marxista. Marx è morto troppo presto. Sei marxista, dunque. Sei profondamente marxista. Ma io credo che Marx sia uno dei più grandi economisti e filosofi del tempo, di tutti i tempi. E questo non ci sono dubbi. Ce ne sono anche altri. Beh, certo, per carità. Ciao, Fulvio, a presto, abbracci, viva il Bassotto, ciao. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Allora, 393 71 71 701. Cruciani, è inutile che continui a sostenere che non sei terrone. Sei terrone? Basta sentire come pronunci il cognome del sindaco di Verona, Tosi. Il sindaco Tosi, si dice Tosi, Teron. E poi un'ultima cosa, per cortesia, cambiate le mutande ogni tanto, vero? Facci sto piacere. Te sì un'arma chimica, un'arma di distruzione di massa, veramente? Te sì un luamar. Lavate. Ehi Crucia, stamattina ho schippato il bidet che ho cagato al volo, ma è tutto il giorno che mi brucia il culo qua. Com'è sta storia? Cruciani, cazzo, la mutanda sgommata? No, dai, no, dai. Ciao Zanzara, saluti da Bruxelles. Nella questione farsi la doccia, in realtà ha ragione assolutamente Cruciani. È anormale farsi la doccia tutti i giorni, è scientificamente provato che più la fai più perdi, diciamo, gli oli naturali della pelle. Quindi in realtà non dico una volta al mese, però 2-3 volte alla settimana al massimo e vai con un filo di gas. Allora, Stefano da Messina, vai Stefano. Stefano? Pronto? Sì, dimmi Stefano, dimmi. Ciao, senti, ma tu e Parenzo, se siete dei gay, perché non vi dichiarate? Però fare passare il messaggio che dire che essere gay o essere lesbiche è normale, davvero è allucinante. Allora, due lesbiche o due froci, chiamiamoli omosessuali, non fanno nulla, non procreano, si divertono e basta. Però e allora? Non fate passare il messaggio. Allora non capito. Non fate passare perché il messaggio. Perché qua è il problema di divertirsi? Scusa. Come? Qual è il problema di divertirsi? Non ho capito. Nessuno, per carità, però tipo fare passare per normale ciò che non è normale. Allora, l'uomo e donna procreano. Tu sei là in radio, insieme a Parenzo, perché un uomo e una donna hanno procreato. Due uomini. E allora non ho capito perché esiste solamente la procreazione? Non ho capito. Esiste solo la procreazione. Però non fate passare, dopo lo fai, hai detto, ah, sai, ora qui in Italia c'è meno reticenza a dire se sei omosessuale o meno, come se fosse una cosa ormai bella, piacevole. Cioè, non lo è, fa schifo. Cioè, capito? No, fa schifo a te. Fa schifo a te, no, fa schifo a tutti. No, a tutti, non fate passare il messaggio, Cruciani, è davvero una cosa a te due froci ti fanno schifo? No, mi fanno schifo, però non fanno nulla, si divertono, non procreano. E allora? Te lo dico, io lo dico, allora? Dice una legge divina, allora io che non so, partiamo subito, non è una morale, ecco, no, non vuole essere una questione religiosa, che perché gente. Non sono né un religioso, né un praticante, né un cattolico, sono una persona normalissima, che ascolta, che sente, e, allora? E davvero, vi ascolto sempre con piacere, con molta dedizione, però che fate gente. Passare sempre il messaggio che quasi quasi, chi è normale, chi è l'uomo e la donna, e quasi si sente quasi in difficoltà, cioè va molto di moda il gay, l'omosessuale, ma non va di moda, ma non c'è nulla di moda, non c'è niente di moda, tu stai dicendo che non è una roba naturale, capito? Esatto, cioè, che è una naturale, roba esatto. Contro natura, che ti fa schifo e forse no, dovrebbero no, essere è contro natura, cioè io voglio che tu lo dica, è contro ma natura. Quale contro natura? Ma quando mai? La natura, ma no. La natura allora, è fatta di dire. La natura allora, è fatta di tanti aspetti, amico mio, allora, è fatta dimmi, di fascismi, allora, è fatta sì, di coerente. Allora facciamo così, come i musulmani devono dire che hanno sbagliato a fare quell'attentato e non ma solo, che c'entra questo? Cose, dillo anche tu, dici essere omosessuali non è una cosa, è contro natura. Ma perché cioè, devo dire? Ma sei scemo, ti ho detto che non la penso così, perché devo dire? Allora, scusami. Non la penso così, allora quindi tu accetti il fatto di essere gay, il fatto di essere, di... a parte che non sono gay, ma comunque insomma accetti il fatto che esistono i gay, certo che accetto, ma sì, ma che sia normale, devi dire non è normale essere gay, lo dici? Ma sei impazzito, sei, cioè è normalissimo essere gay, normalissimo. Ah, è normalissimo essere gay. E che fanno due gay? Due lesbiche, che cosa fanno? Trombano, scopano, si divertono, si vogliono bene, si vogliono bene, si vogliono bene. A livello di ma perché di non si possono volere, cosa... non si possono volere sì. Bene, scusa. Vabbè, ma anche tu vorrebbe anche un cane, tipo, come ho detto poco fa, anche un cane. Cioè, stai paragonando un gay a un cane? No, io parlo il bene, io ho detto il cane è un gay, assolutamente. Ma non è la stessa cosa, amico mio, ma non è la stessa cosa, volere bene tra il rapporto che ci può essere. Ma tu lo puoi dire essere gay non è normale, riesci a dirlo o non lo puoi dire? Ma Stefano, non ho capito, ma se non lo penso, perché dovrei dirlo? Spiegami. Ecco, no, perché quindi devi fare passare il messaggio comunque questo quasi essere uomo e donna che stanno insieme, è una cosa tipo quasi quasi normale. No, assolutamente è normalissima l'eterosessualità, è assolutamente normale. Ma per me è assolutamente normale e naturale che due gay stiano insieme, che due omosessuali, che due lesbiche stiano insieme, che due ci uomini. Altro. Cioè, normalissimo, vabbè, normale. Uno nasce... Non è normalissimo. Cioè, ma scusa, tu, ma se uno piace, io ripeto per l'ennesima volta, a parte che sei circondato da froci, va bene. Ma se uno. Ma non è bellissimo, guarda, non è bello. Ma a parte che è bellissimo. Ma guarda qual è bello, ma c'è una società che ormai è allo sbando, cioè non ho capito. Allo sbando perché esistono i gay, perché esistono i gay. Ma persone come certo, te allo sbando. Ormai siamo ormai alla follia. E che bisogna fare con i gay secondo te? Che bisogna fare? No, non bisogna fare nulla, si accettano di una maniera, però tipo lasciamo stare, tipo di evitare le adozioni, che vanno poi sempre avanti, la famiglia, l'innocenza della coppia, due gay insieme possono stare, ma non devono andare oltre, perché non possono farlo. Non mi fare passare anche il messaggio di due gay possono anche avere figli, adozioni. Beh, perché sì, davvero in molti paesi, alla follia. In molti paesi c'è l'adozione, non succede niente di particolare, non ci sono drammi. Ma succede niente di particolare. Non è cambiata l'idea di una gallina, cioè, voglio dire io. Però Cruciani, ma ascoltami, ma non puoi fare passare anche questo qui. Cioè, almeno su questo qua, tipo, non so, avere un senso della famiglia, avere un senso di cosa vuol dire. Tra avere il senso della famiglia non significa non avere il senso anche che non pensare che ci possano essere anche altre famiglie. Beh, Stefano, mai rotto di coglioni. Sì. Ciao, ciao. Vabbè, ok, anche tu, ciao. Allora ragazzi, ci sono magistrati, finanzieri, non so chi, che perdono tempo in Italia con puttanate inaudite, tipo una multa che è stata data, ho letto nei giorni scorsi, a Bergamo, a un signore che si chiama Vinicio Morzenti, un barista di Bergamo, tra l'altro credo che il bar si chiami Colazione da Tiffany, una cosa di questo tipo. E lui c'è, sicuramente un po' nostalgico da quello che leggo, signor certo. Morzenti, un po' nostalgico, ha tutto il diritto di essere nostalgico. Bisogna dare libertà di parola anche alle persone nostalgiche. Gli hanno fatto una multa semplicemente perché vendeva dei calendari di molto Mussolini, belli. Ma che è molto bello, calendari di Mussolini. Dovevano anche, come ho detto ieri, credo, chiudigli il bar no, e l'hai detto a me in privato, maledetto, sì. A te, come ti ho detto ieri, in privato, certo, sì, lo ripeto adesso però alla radio, davanti a milioni di ascoltatori. Dovevano chiudere il bar. Polizia municipale doveva andare lì. Molto lo chiamo questo qua. Chiudere la Claire e anche sputargli in faccia. Adesso te lo chiamo. Come legge. Deve essere messo nella legge dello Stato. Sì, pronto? Sì, Morzenti? Sì, pronto, con chi parlo? Amico mio, sono Cruciani, come stai? Amico. Bene, bene. Senti, ma camerata, che ti è successo della multa? Me lo spieghi un attimo? È successo soltanto che mi hanno notificato, mi hanno dato una sanzione di 2.800 euro per motivi, per stupidaggini, una stupida mancata comunicazione che non ho effettuato. Ma perché, che cos'è che scusami un attimo, per ricordarlo un po' agli ascoltatori, che cos'è che vendevi tu? Che vendi poi? No, vendevo perché mi è arrivata poi da parte della polizia locale la diffida. Bene. Alla vendita di questi calendari di Benito Mussolini. E poi solo questi vendevi? Solo questo. E quanto costavano questi calendari? 4 euro, una cretinata, praticamente era riservata a Scabella, era riservata soltanto ai miei clienti. Quindi non è che ho intenzione di ricostituire il Partito Nazionale Fascista. Però tu sei un po' fascistone, diciamo la verità, cioè sei un po' nostalgico. Io appartengo alla destra sociale. Vabbè, nel senso che Mussolini per te è stato un grande statista. Certo che è stato un grande statista, è stato anche un grande politico per quello. Cioè uno dei pochi che abbiamo avuto in Italia. Ma penso che dai pochi, penso che sei stato forse il migliore attualmente. Considerando quanto è la situazione, cioè ci dovrebbe essere lui qui adesso, no? Certo che sì, che ci vorrebbe un uomo così forte di coraggio. Eccolo di qua. Carattere. Guardi, nei casi sono Parenzo, salve. Nei casi come il suo, non andrebbe soltanto comminata la sanzione che hanno comminato, ma andrebbe per legge effettuato anche lo sputo di Stato. Ma no, ma che sì, sputo? Cioè, quando uno vende quelle porcherie, gli si dice, lei come si chiama? Vende calendari del Duce? Puh, 250 euro. Oh là là. Ma non ho capito, Parenzo, secondo te andrebbe chiuso questo locale? Non ho capito. Ma adesso chiuso, poveretto, no. Sequestrata la mercanzia, sicuro. E poi? E sottoposto al pubblico ludibrio. Ma che il pubblico ludibrio quella di chi? Di che chi? Sarebbe... Mi ha la fustigazione. No, quello no. Fustigazione in pubblico, pubblica gogna. Metodi che venivano usati in quel tanto tuo amato ventennio. Diciamo che io ti avrei preso e fatto sfilare per il paese con in testa delle orecchie d'asino. Ma smettila. Sì, no, per smettila. Legge. Per legge. Ma scusa, ma è vero, scusami, è vero che hai scritto nella me ne frego sul bollettino. Certo. Ma te lo ricordi? Sì, me ne frego. Comunque intanto paga. Poi dopo ce ne freghiamo tutti. No. Ascoltami, caro. Hai intenzione di pagare? Dimmi. Sì, dimmi, fascistello, dimmi. Com'è che ti chiami tu di nome, Parenzo di nome? David, è un nome David ebraico. Sì, guarda, chi voglio ebraico, non ce l'ho, né? No, per carità, neanche il Duce ce l'aveva, figuriamoci. Beh, insomma, ha fatto le leggi razziali. Ecco, appunto. Vabbè, guarda, che le leggi razziali non le ha fatte il Duce. Beh, no, chi ha le fatto? Le firmate sottoscritte, ricordate bene che... Vabbè, ma adesso non faccio una lezione di storia con lei. Il delitto Matteotti, chi ha ucciso Matteotti? Madonna, Parenzo. Mi passi tu con i tuoi l'altro amico. Vabbè, Trischi, diciamo che non c'era molta democrazia durante il fascismo. Ma no, era una dittatura, ma questo sarà tutto. O no? Uno può avere le sue idee, sì o no? Beh, sì, perché no, per me. Sì, per me, guarda, per me tu puoi avere tutte le idee che ti pare, figurati. Cioè. No, io voglio dire una cosa, ma alla fine non pagherai, non hai nessuna intenzione di pagare. Non ci penso proprio. Vabbè. Tu, Parenzo Davide, dove che sei? Che? Vuoi l'indirizzo per mandarmi dell'olio di ricino a casa? Sì, magari ti mando la confezione anche a te, mi dai l'indirizzo. Col cazzo? Dai! Io sto a Roma comunque, ti ricordi Roma, città dell'impero, no? Quella della famosa marcia, io sto a Roma. Vabbè, Donato, ti saluto, ciao. Mandami tutto a Radio 24, Piazza Indipendenza 23B, mandami tutto. Aspettami un secondo, sì. Studio 20, Radio 24. Sì. Piazza Indipendenza, riservata personale, onorevole Parenzo. Piazza Indipendenza. Indipendenza. Sì. Sai l'Indipendenza, Piazza dell'Indipendenza. 23B. Sì, 23B. 23B. Sole 24 ore, riservata personale La Zanzara Parenzo a Roma. Sole 24. Mandami quelle puttanate. Radio 24. Sì, scrivi sopra. Un secondo, mi stai confondendo. Aspetta, scrivi sopra. Scrivi sopra, me ne frego. Scrivi sopra, me ne frego. Ciao, arrivederci. Ciao. Ma io, francamente, non. non riesco a capire che male fa questo qua a vendere i calendari di Mussolini. Gli devono fare una multa di 1.000 euro perché sì, non c'ha i permessi, non lo so, normale, ma tutte stronzate, perché l'AMPI, i partigiani del suo posto lì, dell'Associazione Nazionale dei Partigiani, hanno protestato, certo, ma vaffanculo, va. Gente per bene. Allora, Nicola da Bologna, anzi Elisabetta da Padova, prima, dai, Elisabetta, via. Buonasera. Dimmi, dimmi. Niente, beh, intanto se posso volevo dire una cosa al signore di prima che parlava di che l'essere gay non è naturale. Oggettivamente penso che l'amore a prescindere dalla forma che ha sia la cosa più naturale del mondo. Vabbè, poi? De gustibus, nulla. Premetto che io non riesco sinceramente a spiegarmi che cosa stia capitando oggi. Sì, ma devi essere un po' sintetica, però Elisabetta, devi essere Elisabetta, no, devi chiamare domani, devi chiamare domani, vai Luciano dalla provincia di Udine, vai Luciano. Luciano, dimmi. Salve, salve Zunzariotti, mi sentite? Vai. Dimmi, dimmi. Allora guarda Cruciani, io volevo chiamarti, parlare con te per convincerti di diventare vegano. Ma non ci pensare proprio, Mission Impossible. Non interrompermi perché dopo mi chiedi di essere sintetico. Dopo ho parlato signor Fulvio. Sì. A me non viene a credere, tu credi ancora che le Torri Gemelle sono state diciamo colpite da attentatori? Dai Luciano, su non diciamo puttana. Ma dai Cruciani, io non credo che tu sei un polo. Ma non dai Luciano, tu che dove sei? Solo i poli possono credere ancora a questa roba. Solo i poli, che sei? Slavo, che sei? Albanese, che sei? Ma no, guarda, sono italiano come te. No, mi sembrava un accento strano, mica lo dicevo per denigrare. No, sono di origine rumena, ma sono italiano come te. No, l'origine, la vedevo che non era un'origine piena italiana. Allora, vabbè, Luciano, che vuoi dire oltre a questa stronzata che le Torri Gemelle sono state fatte cadere con un'esplosione interna, gli aerei non c'entrano niente, gli attentati non c'entrano nulla, un complotto ebraico, un complotto ebraico a favore dell'industria delle armi. Ragazzi, a domani, 18.30, ciao. Quindi, la cacca dei vegani è profumata. Prova a sentire l'odore della cacca della mucca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.